Avventurieri, davanti a voi si è materializzato un antico forziere, chiuso da una sequenza numerica con alcune parti mancanti. Per aprire il forziere dovrete completare la sequenza, basata su una progressione. La sequenza incisa è 1, 4, 16, numero mancante 256. Qual è il numero mancante?